I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Ieri, mentre molti si concentravano sulla relazione della Corte dei Conti, che faceva notare come la pressione fiscale in busta paga da noi sia di 10 punti percentuali superiore alla media europea e come un'impresa italiana abbia complessivamente 25 punti percentuali in più di carico fiscale rispetto al suo collega europeo, è passata in secondo piano un'altra notizia sempre di carattere fiscale. L'Agenzia delle Entrate, infatti, per voce della sua direttrice Rossella Orlandi, ha fatto notare che il 2016 è stato un anno record nel recupero dell'evasione fiscale, 19 miliardi, ma soprattutto che l'incasso da recupero dell'evasione fiscale sia triplicato in 10 anni. È cresciuto anche rispetto al 2015 di un 28%. Perché teniamo assieme le due notizie? Perché volendo immaginare un'Italia virtuosa dove il recupero dell'evasione fiscale si fa sempre più stringente e con sempre maggiore successo, a questo punto non si può però non immaginare un paese in cui si riduce la pressione fiscale verso chi le tasse le paga sempre e comunque. E si torna a porre al centro del dibattito politico non tanto e non solo rimedi estremi, il reddito di cittadinanza piuttosto che il reddito di inclusione, ma anche e soprattutto il cuneo fiscale. Senza un progetto stabile di riduzione continuativa e non solo una tantum della pressione fiscale in busta paga, difficilmente i cittadini potranno apprezzare mai i successi raggiunti nel recupero dell'evasione fiscale. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Più di un italiano su tre ha un debito con Equitalia, o meglio, con uno degli 8.000 enti che affidano a Equitalia la riscossione di tasse, multe e contributi. Si fa dall'Agenzia delle Entrate all'INPS, dai comuni alle casse previdenziali. La cosa sorprendente, che dà un'idea di quanto sia difficile rincorrere imposte e contributi non pagate, è che il debito totale dei cittadini italiani ammonta a 817 miliardi di euro. Ora è chiaro che Equitalia, che peraltro sarà sostituita dal 1 luglio con un nuovo ente pubblico per la riscossione, non gode affatto di simpatia, specie in passato i mezzi utilizzati da Equitalia hanno spesso trasmesso l'idea di un accanimento contro chi non pagava le tasse, magari perché era in un momento di difficoltà indotto dalla crisi. Probabilmente però in molti altri casi Equitalia faceva semplicemente il proprio lavoro, che è quello di recuperare le tasse non pagate. Sta di fatto che, come oggi ha detto l'amministratore delegato di Equitalia, questo enorme credito che vale 817 miliardi di euro è virtuale, non verrà mai recuperato perché è dovuto in gran parte da soggetti falliti, da imprese che sono cessate, da persone decedute oppure da nullatenenti e così via. Restano solo, ma è sicuramente una cifra interessante, 52 miliardi che sono i crediti che possono essere realisticamente recuperati. Un po' saranno incassati grazie alla rottamazione delle cartelle, che è in corso e sta andando piuttosto bene, ma chissà quanto tempo servirà per recuperare tutto il resto. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.